Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Questa riforma è attesa da 70 anni. La prima volta che si è cercato di riformare il bicameralismo perfetto, cioè questa parte della Costituzione, io e lui andavamo alle elementari. La frittata è fatta. Se qua sono ridicoli, a Roma sono pericolosi. A Roma sono veramente pericolosi. Questo è un ducetto senza fisico per fare il ducetto, almeno ci avesse il fisico. O la statura morale o le idee chiare. Spero che si schianti e che l'Italia torni a votare e torni un paese normale. Spetta sempre a lei la decisione, però ecco, nel ricordarle che da questa parte non ci sono gli scemi del villaggio, secondo come voi vi state facendo il film, ma ci sono delle persone che in maniera intelligente capiscono le porcate che state facendo in questi giorni, e nel non accettare... Le consiglio di moderare i temi, cade, signor Presidente. Non insista, per favore, e cerchiamo di trovare un modo. Ha detto porcata. Perché miseria, ci hanno fatto una legge che si chiama la legge porcata. Adesso, Grasso, non si può dire porcate in Senato. Andate. Oh, avete sentito, Renzi? Da 70 anni che si attende questa riforma, dal 1945. Non c'è neanche la Costituzione, quindi non si poteva riformare la Costituzione nel 45. Però vabbè, così è un... è l'enfasi. Eccoci, signori, è venerdì alle 6:34 minuti, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Peter Bescapè in regia ed è venerdì, 124esima settimana decisiva per la chiusura delle province, l'abolizione delle province, che si conclude così. Vabbè. In attesa della prossima 125. Ah, che bello leggere tutto di quello che succede al Senato, bellissimo. Ah, poi ci sono delle cose, delle indiscrezioni incredibili. Intanto voglio salutare subito la nostra che torna, la nostra Chiaretta. La nostra Chiara Geloni. Come stai, la Geloni? La Geloni la trovate così su Twitter, se volete, se dice delle cose sconvenienti. No, se dice qualche cosa, volete farle passare un buon venerdì. La Geloni. Tutto a posto? Tutto a posto. Oggi, tra l'altro, Chiara, abbiamo un ingresso al Parlamento nuovo. Sì. Un debuttante. È un debuttante, sì. Un ex parlamentare. Ex sindacalista. Però quando è stato in Parlamento è stato dall'altra parte, cioè, perché prima era della CGIL, poi è stato dall'altra parte. È Giuliano Cazzola. Buongiorno. Come va, Cazzola? Questo è un posto dove si può dire tutto ciò che si pensa, Va bene, io però non sono, io sono un debuttante per la sua trasmissione, ma non sono un ex parlamentare. Sì, certo. Cioè, se vuol dire, non so, facciamo un museo al posto del Senato, può dirlo, No, guardi, a me va bene, andava bene la Costituzione del 48, quindi io ero e sono per il bicameralismo perfetto. Secondo me bastava cambiare il regolamento. Bastava cambiare il regolamento. Ricorda quel bel film americano degli anni 50? Adesso, cioè, io e la Geloni, se permette, siamo un po' più... Però forse l'avrà visto, era intitolato L'asso nella manica con Kirk Douglas. No, forse la Geloni. No. Che succedeva in questo film? Che succedeva? Parlavano della riforma del Senato, no? somiglia un po' al rumore del 50, Senato. Sai, da 70 anni. Un giornalista senza scrupoli, sì. Capita in un licenziato, peraltro. Sì? Ah, sì, sì, sì, sì. Capita in una località sperduta, in un deserto americano, sì. Dove c'era una miniera, sì. E una miniera in disuso, no? Dove andavano a cercare delle cose, degli oggetti degli indiani, e un poveretto era rimasto sotto, sì. C'era stato un crollo ed era rimasto sotto. Allora le autorità pensano di mettere qualche asse, qualche palo, così andarlo a recuperare. Il giornalista sciuta lo scoop. E fa lo scoop, è vero. Sì, e li convince a bucare la collina. No, ma è vero, ci abbiamo anche un audio di Asso della Manica, eccolo qua, una volta l'avevo usato, eccolo qua. E li convince a bucare la collina, no? E la cosa gli bastava cambiare i regolamenti di Camera e Senato, si voleva velocizzare, si faceva tutto. Senta qua, l'asso nella manica, aspetta. Io sono un giornalista che vale $250 la settimana. So manovrare notizie grosse e piccole, se notizie non ci sono so lavorare di fantasia. Ecco, è questo, Cazzola, è questo, vero? È questo. Ma noi siamo avanti, abbiamo tutto. Però no, prima del Senato cambiare i regolamenti, c'è una rivelazione. Cari italiani, vi possiamo dire quanto guadagna Susanna Camusso? Ho visto 3.850 euro al mese, no? Netti. Ho visto stamattina. Netti. Chiara, hai sentito? 3.850 euro al mese. Subito adesso lo attacca il giornale, guadagna il triplo di un operaio. Attenzione, Landini invece 2.008 al mese. Netti. Ah, quindi quando dici 2.002 dici le bugie. Non lo so, Landini, sinceramente non mi appassiono. Non ti appassiono. Se mi permettete, non mi sembra che ci sia niente di scandaloso. Ma invece, scandaloso. Grande impegno, che problema c'è? Ognuno, insomma, vedere la busta paga delle persone spiattellate sui giornali a me non piace. Voglio dire, non c'è niente. Però guarda che molti operai oggi leggeranno e si faranno una considerazione, quelli che hanno la testa della CGIL. Non farà le considerazioni insomma, io trovo questo fatto che nel dibattito pubblico entrino le buste paga delle persone è una cosa piuttosto, se posso dire, insomma, volgare, non sto accusando nessuno, la riforma del Senato la si fa per non pagare gli stipendi. Certo. Ecco, io lo trovo quasi insultante per lo so, ma sembra allora io la questione a rendere costituzionalmente importante il fatto che non si paghino gli stipendi. Però la questione del museo io l'ho detta come battuta, ma in realtà è una battuta che è circolata ieri, e cioè sarebbe attribuita a Matteo Renzi, che sdegnato ha fatto smentire i suoi portavoce, cioè non avrebbe mai detto la battuta o la frase chiudo il Senato e ci faccio un bel museo. Sì, lì non è chiaro se lui ha smentito soltanto la frase faccio un museo oppure se ha smentito anche chiudo se mi fanno arrabbiare chiudo il Senato. Certo. E io non so quale delle due sarebbe eventualmente peggio se l'avesse pronunciato. Ricordi che c'è uno che aveva la sua età, grosso modo, sì. Quando era presidente del Consiglio, che disse avrei potuto fare di questa aula un bivacco per i miei maniconi. Sì. Uno un po' più di 70 anni fa, ancora un po' prima. Un amico mi ha chiesto, ma come ha fatto? Cazzola, ha paragonato Renzi a Mussolini, ma vi rendete conto, cari ascoltatori? Non sono stata io, No, è stato Cazzola, Cazzola, cioè viene qui e paragona Renzi a Mussolini, bam, prima cosa. Io vorrei dire, ma vuoi mettere l'eleganza di farci un museo rispetto al bivacco di Manipoli? Esatto. Cazzola, lei è stata alla Camera, un po' museo, vedendo alcune facce al Senato, uno ci pensa un po' al museo delle cere, no? Queste robe un po', no? Ma io al Senato non ci sono mai entrato, ma le potrei dire che se facessimo un esame, insomma, della legislazione più importante, i passaggi più decisivi sono sempre stati fatti al Senato. Oh, ma Chiaretta, adesso cosa dobbiamo fare allora a sto Senato? Facciamo un monumento al Senato. Italiani, il Senato, vogliono mantenere il Senato? No, io vorrei vuoi mantenere. No, Cazzola lo vorrebbe mantenere. Siamo campioni rappresentativi. No, Chiara Geloni lo vorrebbe mantenere, anzi lo vorrebbe rafforzare. Anche Renzi lo vuole mantenere, mica lo abolisce. Lo abolisce solo se lo fanno arrabbiare. Quindi lo vuole mantenere anche lui, e qui nessuno vuole eliminare il Senato, così come nessuno vuole mantenere le cose come stanno. C'è un franco dibattito su come cambiare il Senato, che è dentro al PD e con le altre forze politiche. Però oggi avete visto, c'è una novità. Cioè? A te, so che ti appassiona moltissimo questo argomento, per cui ti informo che secondo Repubblica c'è la possibilità che il tabù dell'articolo 2, cioè quella cosa che assolutamente se si toccava come chi tocca muore, e invece pare che adesso Renzi possa dice che forse si può fare una cosa. Effettivamente questo è un tema che adesso gli italiani ma non è che appassiona me, sono meglio gli italiani nei sondaggi, che non so quanto valgono, però si fanno, non vogliono i senatori, no, ma guarda, vogliono scegliere i senatori. Posso dire la mia, ma magari sbaglio, agli italiani non frega niente di questa cosa. Ma non è vero. Poi non frega niente, la nostra Costituzione è una cosa ma l'ho letto anch'io il sondaggio settimana scorsa parlato. Ma l'ho letto anch'io il sondaggio la scorsa settimana, dicendo 7 italiani su 10 vogliono la riforma del Senato così. Ma secondo me 8 su 10 non sanno neanche cos'è la riforma del Senato. E quindi noi dovremmo informarli, non dovremmo dirgli che hanno ragione a non saperlo e a fregarsene, perché la Costituzione non è una stupidaggine. Dici. Una cosa abbastanza seria paese, cosa c'è scritto nella sua Costituzione. Certo. Idealista, ma tendo a dare una certa importanza a quello che c'è scritto nella Costituzione. Io vorrei una spalla in Cazzola, ma Cazzola dà una spalla alla Geloni. Quindi che sono proprio nei guai, caro Cazzola. Allora, come lo so, lei fa scelto male gli interlocutori. Io sono così, sono masochista. Io ho chiesto piacere quando ho saputo che c'era la Geloni, ho detto vabbè, del problema vengo volentieri. Anch'io. Perché a parte il fatto, insomma, che la battuta su Renzi e Mussolini era: avrei potuto fare di quest'aula sorda e grigia un manipolo per i miei boy scout. Questa era la variante. Boy Scout, Boy Scout. Vabbè, allora Renzi però tiene duro. Renzi dice che insomma chissà, farà un museo. Non è vero, non farà un museo. Io sono convinto che Renzi vincerà anche questa sfida, perché lui è un giocatore di poker, no? Tutto intorno a un tavolo dove l'unico che può puntare alla posta le vince, e gli altri la posta non ce l'hanno più. Quindi ieri è andato pure da Bottura, lo chef, si è accomodato a cena con Hollande, questa, nelle terre di Cazzola, tra l'altro, cioè non un po' più non proprio a Bologna. E guarda, c'era qui il menù, porca miseria. Comunque era ravioli, tortelli, baccalà, 6 portate e niente, e hanno parlato un po' di varie cose. Ma c'è uno che l'ha combinata grossa, indovinate chi è? L'ennesima combinata grossa. L'hanno già chiamato per i suoi confronti, è arrivata la legge Severinov. Adesso, la Severinov. Chiara Geloni, la Severinov. Ho capito, è il piccolo cosacco. È il piccolo cosacco, Berlusconi, che è andato in Russia da Putin, e Putin l'ha portato in Crimea, appena strappato all'Ucraina, per questa visita. Per questa visita Berlusconi è giudicato ora persona non grata in Ucraina, 3 anni. Non credo che avesse Cazzola tra i suoi obiettivi andare in vacanza in Ucraina nei prossimi 3 anni, Berlusconi. Non credo che l'Ucraina ci serve poco da vedere. No, sì. Ci sono dei grandi fiumi. No, sarà un paese straordinario, anche l'Ucraina avrà il suo turismo. Ma soprattutto hanno combinato un guaio: hanno bevuto, lui e Putin, una bottiglia di sherry del 1775. Per questo la procura generale ucraina gli ha aperto un'inchiesta. E quindi adesso Berlusconi è un reato bere appropriazione indebita di patrimonio dello Stato, credo, una roba del genere. È il patrimonio dello Stato. Credo una cosa del genere, cioè c'è anche, non puoi neanche dire giudici comunisti, Cazzola. Certo, cioè lì in Ucraina, poi in Ucraina secondo me non ci sono appunto leggi Severinov, No, ma io infatti se fossi in Berlusconi chiederei un incarico a Putin e starei lì. Ma mi sa che lo vuole fare, ha detto che... Perché, che... insomma, secondo me sono in Italia, ormai c'è poco da dire. Un bel... Beh, potrebbe, cosa potrebbe fare? Ha detto che vorrebbe fare il ministro dell'economia di Putin. Una volta l'ha detto, Chiara. Vorrei fare il ministro dell'economia di Putin. Non proprio dell'economia, secondo me. Meglio un altro incarico. No. Mi ricordo che il bilancio dei suoi governi sull'economia non è stato proprio positivo. Vabbè, ma in Russia. Mai in Russia. Ma ci sono le ricchezze, i gas naturali. Ci sono, capisci. Vabbè. Allora mi dicono, mi scrive Giuseppe da Bologna, ma non lo so, vorrei lasciare questo giallo prima del traffico, che Cazzola ama l'osteria Bottega di Bologna. Sì, è vero, ci vado a pranzo con mio figlio il sabato. Ecco, l'amo anch'io. Allora, se domani vuole incontrare Giuseppe, il nostro ascoltatore che ci scrive in diretta domani, cioè Cazzola domani va a pranzo col figlio? Domani sì, ci vado proprio alla bottega. Domani. Perfetto, Giuseppe, domani se vuole incontra Cazzola suo figlio, così abbiamo fatto questa cosa, fatevi un selfie, mandatecelo e noi andiamo al traffico. Dai. Le trafiche. Milan, innamorato di Forchielli, vorrei vedere con lui se fai un mese di vacanza il mese di agosto. Mamma, ma perché questa mania di voler regolamentare tutto? Perché? Ma lasciate liberi chi vuole aprire, apre, chi non vuole aprire non apre, punto e basta, lasciate stare. Alessandro, oppure dovrei dire a Lino, ancora non ho capito quale è il tuo nome. Saresti anche bravo se non fossi così imbevuto di sé. Qualche politico presenterà 8 milioni di emendamenti, io vi propongo di fare 8 milioni di pernacchie. Milan, famiglia Gazzard, che mi devi su prima di te la mattina. Eccoci qua, Giuliano Cazzola, questa è la nostra segreteria telefonica, mi danno imbevuto di te, ma io preferisco il caffè, non ho capito, vabbè, comunque. Siamo con Giuliano Cazzola e Chiara Geloni. Allora, dicevamo Berlusconi, sai Chiara chi è andato a intervistare il Corriere della Sera su questa vicenda ucraina, su questo dramma ucraino? È andato a intervistare Shevchenko, te lo ricordi Shevchenko? Era ministro degli esteri. No, che ministro degli esteri, Cazzola, Andriy Shevchenko, il calciatore del Milan. Allora, Cazzola ragione. Lo Sheva. Ha alzato il telefono e il Corriere e Shevchenko dice: no, guardi, non parlo di queste cose. Domenica era a vedere il derby. Vabbè. Vai, se lo ricorda Cazzola è tifoso di qualche squadra del Bologna, ovviamente. No, io ho una leggera simpatia per la Lazio. Per la Lazio, questo è il gol di Sheva che ci ha fatto vincere la Coppa dei Campioni contro la Juve Manchester, quindi insomma in onore, quindi è una cattiveria così gratuita. Sì, in onore di Sheva. Vabbè, io non ho capito, mi avete convinto a metà dell'importanza di questa cosa del Senato, ma perché? Però gli italiani non è vero, non la digeriscono, Cazzola, non lo so, cioè 4 pagine del Corriere sul Senato, ma io non... Io trovo che ormai questo paese vive di politica, perché io ricordo quando ero un ragazzo il Corriere era il giornale di Milano, era il giornale dell'economia e guardava l'Italia da Milano. Oggi è come dice lei, ci sono... è fatto essenzialmente a Roma, uh-huh, e ci sono pagine di politica guardata dal buco della serratura, sì, perché in retroscena sono la politica guardata dal buco della allora serratura. questo può interessare gli italiani? Non lo so. Con questa riforma grafica che è stata fatta, no? Per cui le notizie brevi vanno su internet sulla stampa ci vanno articoli da 200 righe, diventa anche un problema. Io i giornali mi sono messo di leggo la sera. Appunto. È impegnativo leggerli, no? Diventa un mestiere. Non lo so, una cosa. Sì, dai. La Costituzione, questo non è un problema della Costituzione, questo è un problema dei giornali che diciamo può riguardare qualsiasi argomento oggetto della dell'esame della politica, non è che è perché la Costituzione che la gente non legge quattro pagine di politica sui giornali. No, ma non c'è solo la Costituzione, c'è la politica, la politica di giornata, che ha uno spazio, sì, come diceva Cristola, sì, esagerato e anche raccontato in ma una maniera io credo che la gente, e non è populismo, voglia dalla politica delle risposte su cose concrete. Cioè, quando io dico che la gente, se entri in un bar oggi, sarà più interessata a sapere che la Camusso guadagna 3.850 euro, ma non come critica, Chiara, ma è perché è così, no. Cioè, è perché è così. No, c'è stata una campagna in questo senso qui, dove si è distinto in particolare il Corriere, c'è stata una campagna contro la politica, contro quello che guadagna, insomma, c'è stata una, eccolo lì, una... che lo sa lui, lui lo sa. C'è stata una campagna, no, lo ricordano, Lo sa. E poi chi l'ha tirato la volata Grillo in questo punto, eccolo lì, eccolo lì. Sì, però anche se posso adesso faccio un po' dare l'idea che la politica sia sempre lì a discutere di cose astruse che non hanno nessuna ricaduta nella vita reale della gente, è anche lo stesso Corriere che poi fa la campagna anticasta, capisci? Vabbè, ragazzi, e questo diciamo salutiamo il direttore del Corriere, ci inchiniamo. No, io è stato nominato il Corriere, ma si può nominare qualsiasi altro giornale. Però non è vero che la politica si occupa di cose concrete. Ma sono d'accordo, oggi Libero racconta che la regione Piemonte è passata una legge per il naturismo, cioè si può andare nudi. Non sto scherzando. Per il naturismo, così attraiamo turisti che altrimenti andrebbero. Dipende, potremmo anche respingere. Lungo i fiumi di altri. Tiro nudi, magari non viene più nessuno in Italia perché non ci vogliono vedere. Non lo so. No, è rischioso. È così. È passata una legge su. No, però dicevi adesso, dai, a parte prenderti in giro su questa cosa, che la politica si occupa di cose serie, questo modo, questo diffuso sistema di racconto della politica non aiuta a capire. Per esempio oggi l'articolo di Repubblica che dice che Renzi cede forse sull'articolo 2 è presentato come io i voti faccio come mi pare, però dopo forse siccome mi va a me forse apro sull'articolo, cioè è tutto un teatro, no? Poi vai a vedere la sostanza, c'è la sostanza, è una notizia, però è la notizia che forse si potranno scegliere i senatori invece che sceglierli Renzi mettendosi d'accordo con sapete che c'è, però chiudiamo tutto, raccontato un po' così, chiudiamo tutto e facciamo il museo, una che certa componente narrativa, sì, se lo storytelling va bene. Io mi devo fermare qui anche perché incombe il giornale radio. Ci sentiamo subito dopo per la... Bene, Chiara Giro, bene. Ma che ti frega a te se incompa il giornale radio? Non vedevi l'ora di mollarci. Ecco, questa è la verità. Allora, Chiara Geroni, grazie. Insieme a Giuliano Cazzola, grazie. Ci sentiamo presto, alla prossima. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Alessandro Mela, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori. Dai che è venerdì, si conclude la 124esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. 125esima in arrivo e noi confidiamo e contiamo. Allora oggi parleremo con Flavio Tosi, sindaco di Verona, che è andato a incontrare Renzi, e qualcuno in maniera dietrologica dice è così Renzi si è politicamente comprato, tra virgolette, l'appoggio di tre senatori di Tosi. Poi parleremo di Napoli, la vicenda delle dichiarazioni di Rosi Bindi, la camorra costitutiva di Napoli. Tra l'altro a Napoli c'è questa polemica perché ci sono comuni che rifiutano il set alla fiction Gomorra 2.

Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma sei fuori come un balcone, ma cosa ti sei fumato? Allora, cari ascoltatori, sono le 8 e 21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, vi preannuncio che parleremo anche del Senato, se volete, di politica, avremo ospite Flavio Tosi, sindaco di Verona, più avanti, così come parleremo anche di Napoli, le frasi di Rosi Bindi, la camorra costitutiva della città di Napoli, parleremo anche di questo, tanto andremo in onda fino alle 9.30, lo sapete, anche la prossima settimana, Ma prima io voglio raccontarvi una storia che quando ho letto, quando ne sono venuto a conoscenza, letteralmente sono saltato sulla sedia. È una vicenda complicata, certamente anche una storia dolorosa, che vorrei raccontare con il protagonista. Il protagonista è il signor Davide Zaccarelli, che è qui con noi, lo ringrazio. Buongiorno signor Zaccarelli. Buongiorno. Allora, questa vicenda la vogliamo fare iniziare nel 2007, quando sua figlia Elisa dice che c'è un professore a scuola, Elisa ha 15 anni, dice che un professore a scuola la molesta. E questo professore viene condannato, no? In via definitiva. In Cassazione, in via definitiva, a 3 anni. Sì. 3 anni di carcere. Di reclusione, sì. Che sta scontando. Che sta scontando, sì. Sono diventati soltanto 2 e mezzo, perché 6 mesi li aveva scontati subito, quasi subito dopo la denuncia, dopo le indagini delle forze dell'ordine. Comunque sì, è in carcere, sta scontando. È in carcere, quindi la sentenza è definitiva, le moleste sono esecutive e sono accertate. Sì. Purtroppo, facendo un salto in avanti molto brusco, e qui è la parte più dolorosa ovviamente della storia, sua figlia Elisa a un certo punto, credo nel 2014, si toglie la vita. Sì. 29 giugno del 2014, sì. Si toglie la vita e voi legate ovviamente questa vicenda a tutte le vicissitudini che ha passato in quegli anni? Direi di sì, ovviamente ci possono essere delle opposizioni, però mi sembra evidente una ragazzina di 15 anni che riceve certe attenzioni, più tutto l'aggravarsi, anche tutti questi processi, queste azioni legali, sia penali che civili, sicuramente non hanno fatto bene a mia figlia. Senz'altro. Non bastasse questo dramma, che è il vero dramma di tutta la vicenda, se posso dire. Ovviamente, noi non abbiamo più una figlia, certo. Saltare a quello che succede adesso, e capisco che devo introdurre una questione un po' complicata ed economica, quasi rende tutto la vicenda un po' volgare, se vuole. Sì, però, sicuramente si può pensare, però è una cosa successiva a quello che c'è stato fatto, a quello che è successo a mia figlia, insomma. Ed è, se mi permette, lo dico io e ora lo spieghiamo, una cosa che ha veramente dell'incredibile. Allora, il signor, io spiego qual è la situazione attuale, lei poi ci spiega come si è arrivati a questa situazione. Il signor Davide Zaccarelli. Per quanto possibile, perché è veramente complicato. È veramente complicata. Il signor Davide Zaccarelli, come detto, padre di Elisa, che ha subito delle molestie accertate con una sentenza definitiva, è in carcere l'insegnante che ha molestato sua figlia che poi si toglie la vita nel giugno del 2014. Ora il signor Zaccarelli è obbligato da una sentenza civile a risarcire lui, la famiglia, nello specifico la madre del professore che ha molestato sua figlia. Cioè, lei quanti soldi deve dare alla madre del... Dunque, direttamente la madre sono 21.000 e qualcosa euro, però ci sono anche le spese legali, tutto il resto sono 40.000 euro. Insomma, 40.000 totale. Euro? Ma perché è lei, dopo tutto quello che avete passato, dopo tutto quello che ha subito vostra figlia, dopo tutto quello che è successo col dramma del suicidio, è lei che deve pagare i familiari della persona? Scusi, ma mi viene il sorriso nonostante la tragedia, perché siamo al limite del ridicolo. Se vuole le spiego, sì, insomma, cerco di farla breve, ma è veramente complicato, quindi potrei saltare qualche particolare importante, però cerco di essere abbastanza. Dunque, il molestatore, il violentatore, oltre al carcere, era stato condannato a risarcirci del denaro. C'era una provvisionale, 60.000 euro, credo. Sì. Che a noi, io lo dico molto chiaramente, sarebbero serviti a curare in maniera sicuramente migliore di quello che abbiamo potuto noi fare, perché io sono un operaio, mia moglie è una disoccupata che fa ogni tanto qualche lavoro saltuario, quindi i redditi sono quelli che sono. Mm-hmm. Ripeto, una famiglia, io questo tengo a dirlo, molto molto normale, che viveva decorosamente pagando un mutuo di una casa, di un appartamento, sì, dove viviamo, insomma, sì. Comunque, praticamente il molestatore non paga assolutamente niente. Non, anzi, vi dà nulla dei 60.000 euro che per il quale è stato condannato a darlo. C'era una sentenza, c'è una sentenza del giudice, quindi immediatamente esecutiva. Quindi, E dopo, perché non ve li dà? Perché dice di non averli? Perché praticamente lui, questo è documentato dall'indagine della Guardia di Finanza, pian pianino, molto velocemente, una settimana prima della prima sentenza per la violenza, fa sparire tutto, praticamente ritira, chiude tutti i propri conti correnti e disposta di far transitare sui conti correnti intestati tra lui, padre, la madre, insomma, ritira tutto. Ed è qui la questione per la quale si arriva all'attualità, e cioè che voi cosa fate? Fate bloccare i conti dei familiari? Praticamente di in sede penale c'è anche, non finisce soltanto sul fatto della violenza, c'è un procedimento per il fatto che il molestatore aveva eluso la sentenza del giudice, sì. Quindi c'è un ex, mi hanno detto, ex articolo 388 del codice penale, per il quale in secondo grado il giudice ha sentenziato un anno e mezzo di carcere ulteriore, però sì, chiaramente siamo in attesa della Cassazione. Sì. Io le dico questo per il semplice motivo che in questo secondo grado, diciamo così, di giustizia penale, sul fatto che lui abbia fatto transitare questi denari, mm-hmm, sui conti correnti dei genitori, c'è un'indagine della Guardia di Finanza che, oltre ad essere che stata accerta fatta, questa cosa. E perché allora? Perché lei allora? Perché c'è un giudice che successivamente, sì, siccome voi avete fatto bloccare i conti, sì, in questione, l'unico conto che era rimasto, dove c'era veramente poco, però il magistrato ha dato, diciamo così, l'ok, perché io mi chiedo anche, se io chiedo il sequestro cautelare di un conto corrente di una persona, mm-hmm, beh, se il magistrato mi dice va bene, vuol dire che c'è un magistrato che dice va, appunto, bene. E perché c'è stata questa sentenza che dice che c'è stato poi un blocco illegittimo in sede civile, proprio illegittimo, per continuare, per vedere se noi riuscivamo ad ottenere qualcosa, sì, praticamente il giudice civile, invece di tenere conto dell'indagine della Guardia di Finanza, che, come, sì, le dicevo prima, è stata tenuta in considerazione, sì, era la base di questa condanna ad un anno e mezzo in secondo appello per elusione. Questo giudice ha detto che voi avete indebitamente bloccato il conto, sì, dei familiari del molestatore del padre, di vostra figlia, sì, e quindi, sì, vi ha condannato a risarcirli con queste, sì, cifre. Praticamente spese legali, la consulenza, perché lei ha utilizzato per dimostrare questa cosa la consulenza di un commercialista, di un ragioniere fiorentino. E niente, comunque sì, è andata così. Noi ci siamo ritrovati a dover, inizialmente erano circa 30.000 euro, sì, poi chiaramente gli interessi e tutto il resto sono diventati più o meno. No, ma la vicenda è surreale. Allora, io devo dire questo, signor Davide Zaccarelli, per riepilogare, avete avuto una figlia che ha subito queste molestie, sì, accertate, una figlia che poi si è tolta la vita, ora dovete dare dei soldi, e tra l'altro credo dei soldi, 21.000 euro nel, sì, giro di pochi giorni, entro quando? Adesso la situazione è un po' cambiata. Dunque, intanto le dico subito, io successivamente abbiamo cercato i miei legali, insomma, comunque mi hanno, tra virgolette, condannato a pagare, mi prendono già da un po' di tempo, un quinto del mio stipendio. Cioè già adesso un quinto del suo stipendio? Sì, sì, è già da diversi mesi, sì, avrò già versato 5.000 euro. E vanno alla famiglia del molestatore? Alla famiglia del molestatore, sì. Ma incredibile. Anche qui si parla di cose di giudici, di magistrati, adesso non so di preciso chi abbia ingiunto, comunque tutto d'accordo. A me risulta che fossero compresi tutta la somma, questi 40.000 euro. Subito il mio quinto va versato ai legali, alle spese legali, sì, e poi vengono i creditori. Così mi è stato riferito, magari mi sbaglio, ma non penso. Ecco, io ho già cominciato a pagare questi 21 certo. euro. Cos'è successo? Una decina di giorni fa mi è arrivato un altro precetto di pagamento con intimazione di pignoramento, cosa che io non... Di pagare 21.000 euro, di pagare 21.000 entro euro alla madre del molestatore, per il semplice motivo, la spiegazione è stata questa: la madre del violentatore, del molestatore, è vecchia, è anziana, adesso vecchia è una brutta parola. Per cui ci metteresti troppo tempo a pagare, li vogliamo subito. Senta, signor Zaccarelli, parliamoci chiaro, lei ha fatto anche un appello pubblico, io l'ho invitata anche per questo. Scusi, sì. Una precisazione, sì. Noi abbiamo fatto obiezione, per cui in questo momento questa richiesta di 21.000 euro è in attesa che un giudice dica se è giusto che noi dobbiamo darli o meno. Perché allora, prima di questa obiezione, di questa opposizione, voi sì. Avete fatto un appello pubblico, mi dica se vale ancora, perché se vale ancora lo rilanciamo. E cioè lei ha detto: noi abbiamo bisogno, io non ce la faccio economicamente, sì, e anche su Facebook. Ho calpestato il mio orgoglio, ma ho dovuto farlo perché io ho una moglie, ho un altro figlio più piccolo, io ho il mio lavoro, tra l'altro io faccio un lavoro a ciclo continuo, quindi faccio turni e tutto il resto. Io più di così non so cosa fare. No, al di là di più di così non so cosa fare, più di quello che avete subito non so che cosa dovete subire, aggiungo io. Tra l'altro Lorenzo da Milano, per esempio, ci scrive via SMS e ne approfitto a dire: aprite un conto e versiamo un contributo per questo padre. Il conto c'è già. Una possibilità per chi vuole, documentandosi, la vicenda è andata su tutti i giornali, di aiutarla concretamente. Come si fa? Non dia l'IBAN perché è troppo complicato, ma dica come raggiungerla, come aiutarla. Io ho la mia pagina Facebook, dove la pagina come Davide Zaccarelli? Zaccarelli Davide. Molto diretta e molto... Come la si riconosce? Esatto, come la si riconosce tra omonimie? Diciamo che nella pagina iniziale del profilo ci sono due foto, no? Non so se lei è pratico, ce n'è una grande e una piccolina. Nella piccolina ci sono io con un berrettino in stile cubano, mettiamola stile così. Cubano. E c'è subito in evidenza la vicenda, si capisce che lei, l'Iban... Sono sommerso di messaggi di solidarietà, di persone che... io dico ovviamente, magari insomma ci danno ragione, ha detto proprio molto semplicemente, per cui è impossibile non riconoscermi, insomma, non vedere che sono ma io. Questo certo. Allora, chi vuole aiutarlo, Zaccarelli Davide, lo trova su Facebook e lì è molto semplice. Poi le chiedo due o tre cose banali, guardi, chiaro che sono le cose che tutti mi chiedono via SMS, io gliele giro a dire, poi si dice fidarsi della giustizia. Lei che nei confronti della giustizia, capisco che poi ogni giudizio è diverso, ogni processo è diverso, perché c'è stato anche chi ha accertato la violenza e ha mandato in carcere il professore di sua figlia. La giustizia qui è stata fatta, certo. Lì è stata fatta, lei dice. Però nei confronti della giustizia lei si porrà da cittadino comune una domanda? Io, a volte è difficile, io ci ho pensato, ci ripenso. Non è facile, io questa differenza, questo accanirsi contro di noi che mi lascia perplesso, poi magari non mi voglio sbilanciare perché non vorrei che qualcuno ne approfittasse delle mie parole, però che, diciamo, una grossa delusione, ma molto grossa, cioè senza andare su soppesare in maniera ma è chiaro. Troppo precisa. Lei non ha mai fatto una cosa che non deve assolutamente fare, non è tenuto a fare, ma uno a un certo punto disperato potrebbe anche alzare il telefono, chiamare la mamma di questo molestatore a dire: ma lei... Nonostante la tentazione ci può essere stato, io non ho mai contattato nessuno, nemmeno, glielo dico subito, il molestatore, perché da cittadini normalmente onesti, mi viene da dire, da famiglia onesta, abbiamo considerato fin dal primo momento che il modo giusto di affrontare questa situazione era la legge, la giustizia italiana, sì, sì. Che certo. In questo momento non è che ci stia dando proprio molte soddisfazioni. Lei è anche molto sfumato nel giudizio, come dire. Devo un po' proteggermi, mi è stato detto che dovrei mettermi le mutande non di piombo ma di acciaio, quindi sa com'è, ha capito, no? Penso che si capisca. Capisco, io capisco e... Che dire, le mandiamo un abbraccio, ecco, insomma, qui da Radio 24 voglio ripetere, Zaccarelli Davide, lo trovate così su Facebook, è la vicenda che riguarda sua figlia. Mi permette di ringraziare veramente tutte le persone che chiaramente hanno versato qualcosa, una riconoscenza enorme, ma la mia riconoscenza enorme è anche per quelli che hanno versato veramente una cifra simbolica o... qualcosa in più, però veramente questa vicinanza, o non hanno neanche versato niente. Ma hanno manifestato solidarietà, sì, è chiaro. Io la ringrazio ovviamente in bocca al lupo, a Davide Zaccarelli. Buona giornata. Non lo so, io devo andare in pubblicità. Se volete dirmi qualcosa su questo caso, che non, sicuramente non avrete approfondito, probabilmente la prima volta ne avete sentito parlare qui a Radio 24, 800 24 00 24. Poi parleremo anche della riforma del Senato. Sì, certo, però ho voluto iniziare così oggi, tra poco. Siamo qui, allora 8 e 41 minuti, beh, devo dire stanno arrivando tantissimi messaggi di chi ha ascoltato la storia di Davide Zaccarelli e della figlia molestata da un professore. Condanna per questo professore, la figlia poi si è tolta la vita ora per una vicenda complicata che c'era assunto Zaccarelli. È lui a dover pagare, c'ha già un quinto dello stipendio pignorato, i familiari del molestatore. È una vicenda incredibile, chi ci scrive surreale, via sms ce lo scrive Alessandro. Lascia questo stato di M, scrive un altro ascoltatore. Mi vergogno di essere italiano, Walter da Vicenza. Vabbè, ma è chiaro che lo sdegno c'è. O Laura ci chiede: ma quei familiari non si vergognano di chiedere soldi e ottenere soldi da una persona che ha avuto la figlia molestata dal loro figlio? Io non so che dire. Fabio da Cosenza, qualche ascoltatore ci sta chiamando. Fabio da Cosenza, che ci vuole dire su questa vicenda? Sì, buongiorno, vabbè, intanto sono indignato io stesso per i familiari che sarebbero dovuti andare con il capo, come si suol dire, con spastro di cenere, e chiedere scusa al signor Zaccarelli per l'accaduto, altro che chiedere risarcimenti danni, che veramente ci stanno ben poco. Sì. E altro punto è che oltre a contribuire, per come l'avevo indicato stamattina via radio, credo ci possa essere una raccolta fondi per aiutarlo a fare... Ma lui la sta facendo, infatti. No, mi riferisco ad un'altra raccolta fondi, un ricorso alla Corte... come si chiama, la Corte dei diritti dell'uomo a livello internazionale, perché è una cosa pazzesca. Ma sai, è una sentenza civile quella però che lo condanna, non, io non so che dire, perché sono due vicende diverse. No, ci sono le possibilità, a livello... E poi altra cosa, chiedo in diretta telefonica al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni, di intervenire. Perché veramente è vergognoso, perché oltre a questo caso, io ascoltavo l'altro caso di quell'altra persona che si sta facendo l'ergastolo, malgrado ci sia stato qualcun altro che ha dichiarato, ha ritrattato la dichiarazione di qualche anno fa. Purtroppo casi così ci sono, Fabio. Cosa vuol dire in conclusione? No, volevo dire, tenere duro al signor Zaccarelli, faremo il possibile anche con un minimo di contribuzione, lo tireremo fuori da questo veramente... No, ma quello sì, io credo che la solidarietà è dal punto di vista economico, questi 21.000 euro da dar subito, se non ci sarà opposizione accolta, li troverà, perché la solidarietà che sta ricevendo è tanta. Certo, rimane tutta la vicenda sullo sfondo, ma vorrei sentire Mario da Verona. Grazie Fabio da Cosenza. Mario da Verona? Sì, buongiorno Milan. Eccoci. Sono rimasto sconvolto da quello che ho ascoltato. Vorrei fare una domanda, se possibile. Sì. Visto che questa persona è stata condannata in via definitiva, possiamo sapere il nome e cognome? Sì, si chiama Ezio Foschini, è un professore, ma voglio dire, questo cosa cambia? Cambia molto, perché l'anonimato permette alle persone che hanno questo tipo di tendenze di poter reiterare. Ma è in carcere comunque, è in carcere. Sì, benissimo, prima o poi terminerà la pena che gli è stata data, uscirà e magari tornerà ad insegnare. Quindi è bene, questo, è bene questo che, non è lo bene. So se nella pena gli è stata data interdizione ai pubblici uffici, e quindi questo non lo so. Mi sembrava nella vicenda che mancasse questo aspetto, e la ringrazio di averlo fatto. No, ma è chiaro, il nome è, chiedo scusa, Ezio Foschini, il professore è stato condannato in Cassazione, sta scontando 3 anni di carcere per questa vicenda. La ringrazio per la precisazione, ripeto, Zaccarelli Davide, se volete aiutarlo. Ecco, infatti qualcuno suggerisce, il dottor Zaccarelli qua non è qui, glielo diremo magari, di mettere un sigillo sulla pagina Facebook o qualcosa. Io gli ho chiesto apposta se... si riconosce subito che è lui, perché sapete, ci sono già anche truffe, è facile poi fare una pagina Facebook simile con un IBAN diverso, quindi lo diremo al signor Zaccarelli di far capire quando uno arriva sulla pagina, se vuole arrivare sulla sua pagina, aiutarlo anche solo a dare solidarietà, che è quella la pagina giusta. Zaccarelli Davide. Il traffico, poi avremo Flavio Tosi ai nostri microfoni. Oh, mi dice giustamente Lorenzo Nespoli in redazione che per chiudere la vicenda Zaccarelli, il signor Zaccarelli, anche nella nostra pagina Facebook, nella pagina Facebook della nostra trasmissione 24 mattino, abbiamo messo già il link esatto della pagina Facebook del signor Davide Zaccarelli, quindi lì non vi sbagliate se volete trovarlo da lì, a trovare la pagina giusta. Ma voglio salutare il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a voi. Leader di Fare, che va da Renzi a fare che cosa? Sa che i maldicenti dicono che siccome lei controlla 3 senatori, adesso i numeri contano al Senato. Ma in realtà il colloquio col Premier avrebbe dovuto esserci qualche giorno prima a Verona, e quindi è stato solo un recupero di una tappa istituzionale. Sì. Si è parlato anche ovviamente di politica e di riforme, si è parlato principalmente dei temi cari ad un sindaco, quindi tasse locali, sì, patto di stabilità, quello che appunto sono le cose che contano per noi che amministriamo delle comunità. E poi anche si è parlato anche delle riforme, dove siccome lui era curioso di sapere quale sarebbe stata la nostra posizione. Curioso, era curioso, più che curioso era col pallottoliere, sindaco Tosi. Ma credo che sia abbastanza normale che in un momento in cui la maggioranza ha delle tensioni interne, e quindi diciamo deve andare un po' alla conta in base a quella che è la situazione, sì, in Senato, è abbastanza normale conto che vada a confrontarsi anche con chi non fa parte della maggioranza per capire le intenzioni. Lei che gli ha detto, cioè, che voteranno i 3 senatori? E allora gli ho detto che noi non facciamo ostruzionismo, noi non impediamo che il governo possa governare, perché un discorso è non condividere una riforma, un discorso è impedire che venga fatta. Le riforme servono, l'importante è che siano, sì, fatte bene. Quindi abbiamo detto che noi sulle questioni pregiudiziali non facciamo ostruzionismo, sul fatto di calendarizzare la riforma nemmeno, perché è giusto calendarizzarla, perché è giusto che si discuta, perché è sbagliatissimo impantanare il Senato in modo da perdere tempo, perché gli italiani non vogliono che il Senato perda tempo per nulla. Dopodiché mi sono confrontato sui contenuti, dicendo così com'è oggi il Senato non conta nulla, perché al di là che sia elettivo o non elettivo non conta assolutamente tanto vale abolirlo. E il Premier Renzi mi ha anche detto che in effetti l'ipotesi di abolirlo è un'ipotesi che potrei anche considerare. Ah, Renzi gli ha detto questo, quindi è vero quello che esce sui giornali, l'indiscrezione, cioè Renzi gli ha detto potrei anche, ma perché non l'ha fatto subito allora? Ma perché forse subito ha pensato a una forma di mediazione con il Senato e i senatori, e adesso magari si rende conto che piuttosto che una riforma abborracciata è meglio l'abolizione. Ma secondo lei il Renzi che ha trovato, perché circola anche questa battuta che avrebbe detto lo chiudo e ci faccio un bel museo al Senato, poi lui l'ha smentita? No, è stato molto più concreto, cioè, dice anche lui, cioè, o il Senato serve a qualcosa e allora si riforma il Senato, se viene fuori un Senato che non serve a nulla, tanto vale toglierlo. Ma un Senato fatto da 100 senatori di cui 5 a vita e non eletti tra sindaci, consiglieri regionali, a cosa serve? Dipende dalle funzioni che gli si dà, cioè se ha un potere reale di rappresentanza delle regioni, di rappresentanza degli enti territoriali, con funzioni nettamente diverse da quelle della Camera, la Camera fa la Camera e il Senato dovrebbe essere l'aula, la Camera delle regioni, e quindi diciamo con due compiti completamente diversi, in questo senso allora ha un valore. Se invece tutte le deleghe, tutte le competenze stanno allo Stato centrale e al Senato di fatto a quel punto viene svuotato di ogni competenza, non ha senso. In quel caso non dovrebbe volerlo. Però... quindi io ho detto che rispetto al voto sulla riforma, se la riforma resta così com'è, noi non la votiamo. Se noi cambia, non facciamo ostruzionismo, ma non la votiamo. Non la se cambia, se, diventa un, se il Senato diventa un organo che ha una sua dignità e quindi ha ancora un senso che esista, allora ci pensiamo su. Però io credo che da sindaco lei fosse più interessata alla questione delle tasse locali. Allora, che il 16 dicembre possa essere il funerale della, delle tasse sulla casa, come ha detto Renzi, a lei sta bene o no? Perché... ma allora, io gli ho chiesto, perché fa parte del nostro programma, che anche nella Costituzione poi venga inserito come paletto quello che la tassazione sulla prima casa, sugli immobili non fruttiferi, diventi Costituzione, perché in quel punto, a quel punto lì almeno non ci sarà più il pericolo che Renzi la toglie, quello che viene dopo la mette, quello che viene dopo la toglie, quello che viene dopo la mette, perché la tassa sulla prima casa, abbiamo visto sto balletto negli ultimi anni. Sì. E quindi l'ideale sarebbe addirittura inserirlo in Costituzione, così sì, la Costituzione prevede che gli immobili non fruttiferi la prima casa d'abitazione non si tassano, e così siamo sicuri che nessuno in futuro... Ma da sindaco lei non ha paura di perdere delle entrate subito con il suo comune? No, è chiaro che gli ho detto, sapendo come funziona spesso in Italia, che gli ho detto che l'importante è che questo tipo di sconto che viene fatto ai cittadini sia compensato. Certo, che altrimenti ha avuto rassicurazioni? Ma ha detto che rispetto alla cifra pattuita il governo ha capacità di recupero, sono 4 miliardi scarsi, e quindi è che ha la capacità di recuperare altrove. Gli ho detto, se fosse così, gli ho detto bene, togliamo la tassa e le recuperiamo per i comuni. Senta Tosi, a Verona avete immigrati, su tutta questa gestione immigrati, cosa ne pensa lei? Perché adesso non è più leghista, vede che la Lega è molto... Io sono più leghista di Salvini, se per quello. Ah, lei è più leghista di Salvini. È lui che si è dimenticato cosa sono l'autonomia e il federalismo, oggi parla di tutt'altro. Però rispetto a quei temi ho la posizione di sempre, io 8 anni che amministro la mia città, l'importante è il rispetto delle regole e l'integrazione, quindi siccome sulla mia città gravitano, parliamo di profughi, quindi di questa nuova ondata, più del doppio di quello che è il parametro che era stato previsto, un profugo ogni 1000 abitanti, sì. A Verona siamo abbondantemente sopra i 2, parlo di Verona città, sì. Io quando ci siamo confrontati col prefetto, col questore, l'arma dei carabinieri, le forze dell'ordine, gli ho detto io non faccio casini, non aizzo la folla, non organizzo manifestazioni di piazza, pretendo legalità, presenza delle forze dell'ordine e che chi è qua rispetti le regole. Però... poi noi fra l'altro li facciamo anche lavorare gratuitamente, perché abbiamo chiesto di poter al prefetto di poter avere questa possibilità, e parecchie decine di loro lavorano gratuitamente per la comunità veronese. Però le chiedo, non è proprio salviniana come posizione, però non è neanche posizione pragmatica, non è neanche maroniana. Lei era più vicina a Maroni, ha visto cosa ha fatto Maroni? No, guarda che è molto maroniana rispetto a quello che fu ministro degli interni. Va bene, però le chiedo questo, Maroni gestì questa emergenza da ministro degli interni, poi adesso che fa il governatore dice il contrario, ma questo è un problema suo. Appunto, perché la regione Lombardia ha detto via i bandi e finanziamenti agli alberghi che ospitano i migranti, è la formula un po' diversa, cioè non diamo soldi e finanziamenti a chi non vive solo di turismo come alberghi, che vuol dire a chi vive di migranti, no? È fatta apposta, dai. Allora, ci sono due valutazioni, una sulla coerenza, perché ripeto, Maroni nel 2011 da ministro intimò alle regioni di far fronte all'emergenza accogliendo ognuno una parte dei profughi che arrivarono, e adesso invece cambia posizione. Qui ripeto, qua la coerenza personale ognuno la valuta. C'è un fatto che i 35 euro al giorno sono una cifra eccessiva, cioè c'è chi sceglie di vivere di quel tipo di business, perché 35 euro al giorno, che sono 1000 euro al mese, è una cifra colossale, cioè c'è chi ha grandi centri d'accoglienza di fatto e a fine anno porta a casa qualche milionata di utile netto, è decisamente si è alimentato un business eccedendone le cifre. Io sindaco devo concludere in un flash, Salvini a Palazzo Chigi, lei come lo vede? Perché bisogna avere capacità di governo, e Salvini fino adesso non ha dimostrato di aver governato alcunché, e poi bisognerebbe essere appunto non demagogici e non populisti, e fino adesso Salvini ha dimostrato di essere molto bravo dal punto di vista della raccolta del consenso, del grande consenso, attraverso posizioni populiste e demagogiche. È l'altra faccia di Beppe Grillo, di fatto. È l'altra faccia di Beppe Grillo. La ringrazio intanto, Flavio Tosi, sindaco di Verona. Noi andiamo avanti fino alle 9:30, ci sentiamo dopo il giornale radio. Buongiorno da Maurizio Melis. Scorie radioattive per 300 anni anziché 100.000. Sicurezza passiva, cioè basata sulle leggi di natura anziché sull'attivazione di meccanismi complessi o che richiedono l'intervento dell'uomo e che possono non funzionare nel momento del bisogno. Possibilità di utilizzare combustibili diversi dall'uranio 235 e infine maggiore efficienza energetica. Come abbiamo visto ieri, sono questi gli obiettivi cui puntano i ricercatori impegnati nello sviluppo del nucleare di quarta generazione. E per raggiungerli la comunità internazionale ha individuato 6 possibili nuove architetture per i reattori nucleari del futuro. Ma quali sono le più promettenti, quali le più vicine alla realizzazione e qual è il ruolo dell'Italia nello sviluppo di queste tecnologie? Cercheremo di capirlo stasera a Smart City, appuntamento alle 20:50 qui su Radio 24. Da Maurizio Melis, buona giornata a voi tutti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Per la prima volta a luglio le vendite del Made in Italy sui mercati internazionali hanno segnato il massimo di sempre, superando in un solo mese la soglia dei 40 miliardi di euro. È il sesto aumento consecutivo che porta l'Italia anche davanti alla Germania, con un aumento dello 6,3%, uno 0,1% in più rispetto a Berlino. È una buona notizia, naturalmente, si va ad aggiungere alle altre che stanno in questi giorni componendo un quadro che dà conto dello scongelamento dell'Italia sul fronte dell'economia. Il dato dell'Expo però è maggiormente importante perché dà conto di una modifica in atto nei mercati di sbocco. Se infatti Germania e Francia, che sono tradizionalmente i due mercati di afflusso per le merci italiane, hanno segnato solo un modesto più 2%, sono gli Stati Uniti ad aver registrato un più 22,9%, una cifra record, e il mercato americano ormai vale il 9% delle nostre esportazioni totali, mentre solo l'anno scorso contava per il 7,5%. La nuova corrente atlantica è alimentata dalla debolezza dell'euro sul dollaro, che da un lato fa lievitare gli incassi in valuta europea e dall'altro consente per chi esporta di avere margini per gli sconti sui listini in modo da consolidare i volumi di vendita negli States. Decisiva è la presenza italoamericana della nuova FCA, che da sola ha garantito oltre un terzo dei 4,6 miliardi di ordini aggiuntivi registrati nei primi 7 mesi dell'anno. Nonostante il rallentamento, resiste anche la Cina, con un aumento del 3,8%, mentre è catastrofico il risultato verso la Russia, calata di quasi 35 punti per effetto della politica dell'embargo europeo e delle contromisure di Mosca. La più colpita è l'auto, con un calo del 91%, ma ci sono interi distretti industriali, come quello della calzatura di Fermo, che soffrono del blocco degli acquisti di Mosca. Da segnalare infine il balzo delle commesse in Turchia e in India e l'affacciarsi di nuovi mercati europei in Belgio e Spagna, ormai due paesi di tutto rilievo per lo sbocco del in Italia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Eccoci qui, sono Alessandro Milan, andiamo in onda fino alle 9:30 questa settimana e anche la prossima, cari ascoltatori. Allora, di che parliamo? Vogliamo parlare di Napoli, Camorra? Tra l'altro lo facciamo proprio nei momenti in cui sono in corso nel centro di Napoli e in altre località italiane una maxi operazione dei carabinieri con l'arresto di una quarantina di persone presunte affiliate vicino a clan attivi nel centro storico della città. Sarebbero stati arrestati anche dei commercianti e titolari di negozi, i nomi sulle agenzie però non ci sono, ma questo mi dà il pretesto per tornare alla vicenda, insomma, che ha fatto tanto discutere, che fa discutere. Ma si può dire che la camorra è costitutiva della storia di Napoli, come ha detto Rosy Bindi? Secondo me si può dire, è certo che la storia di Napoli è tante cose, la storia di cultura, di teatro, di arte, di straordinarie ricchezze, ma anche della camorra. Cioè, che male c'è? Sarebbe come raccontare la storia della Sicilia con tutte le sue conquiste, i normanni, gli arabi, la cultura, omettendo che c'è anche la mafia. O dire facciamo la storia degli ultimi 500 anni della Germania e ci dimentichiamo che c'è stato anche il nazismo. Ben diverso, ma forse tutto nato da un equivoco, il fatto di dire la camorra è nel DNA dei napoletani. Ma Rosy Bindi questa frase così nel DNA non l'ha mai detta. Comunque Rosy Bindi si difende. Rosy Bindi: la camorra è un dato costitutivo della città di Napoli, meglio potremmo dire le camorre, e non rinnego la mia affermazione. Accidenti, tocca dare ragione a Rosy Bindi. Anche Saviano credo l'abbia difesa, eh? forse è stata mal interpretata, qualcuno ha creduto che facesse riferimento al DNA dei meridionali o dei napoletani, cosa aberrante. Invece il sindaco De Magistris subito si era un po' inalberato. Io non so quale fosse il pensiero del presidente Bindi, ma quella frase, quando l'ho letta, mi ha fatto saltare dalla sedia. È messa così nel DNA, effettivamente sì. Allora, io voglio salutare una persona che abbiamo strappato dalla trasmissione, che inizierà tra poco, perché alle 9.30 fa una trasmissione su Radio Marte, la Radiazza, è molto molto seguita, è un personaggio molto popolare a Napoli e non solo, Gianni Simioli. Eccoci qua, Gianni. Buongiorno. Come stai? Tutto a posto? Va bene, mi spiace di non poterti ascoltare, perché sono in onda. Che deve fare? Ciao Italia. Eccoci qua. Allora Gianni, sì. Tu ne hai parlato tra l'altro in questi, immagino che i microfoni Radio Marte, i telefoni siano un po' bollenti. Sì, guarda, allora io voglio, sarò veloce, punto uno, che il problema è che nessuno più si permetta di venire da queste parti a raccontarci quello che sappiamo, che nessuno si permetta più che probabilmente una parte della città sia complice, no? Del malaffare, dell'illegalità, perché insomma io lo dico ogni mattina alla radio scontrandomi con tanti napoletani, il 98% di questa città è sana e non ne può più di subire probabilmente quello che la Bindi chiama il nostro DNA, DNA di certi altri, perché quando poi tentiamo di ribellarci, però non l'ha detta questa cosa, ma non l'ha detta, ci sono caduto anch'io. Io l'altra mattina ho aperto Il Mattino, un quotidiano che ritengo autorevole, il titolo in prima pagina era Rosy Bindi due punti, i napoletani hanno la camorra nel DNA, anche io, come diceva il sindaco De Magistris, ma è impazzita, ma sì, poi però sono passate delle ore e abbiamo scoperto dell'altro. Uno, che la Bindi questa frase non l'ha mai detta. Due, che De Luca, che prontamente si è schierato a favore dei napoletani, qualche tempo fa aveva detto più o meno la stessa cosa. Guarda, io ce l'ho qua, 2011, forum della comunicazione, De Luca, due punti, aperte virgolette, a Napoli ci sono persone geneticamente ladri di camorra o ladri di pubblica amministrazione, non fa differenza. Però De Luca, ma che improvvisamente non sei più d'accordo con la Bindi. Allora stamattina Bassolino, tu l'avrai letto, c'è un'intervista no, sul Mattino, a un certo punto lo dice, non lo dice, e dice evidentemente si sono mescolate le legittime differenti valutazioni sulla camorra Bindi e De Luca con altre questioni politiche o legate a polemiche pregresse su altri temi. Allora io dico ai miei concittadini che amo, perché nessuno tocchi Napoli, perché altrimenti veramente finisce male, dico, ma non ci cadiamo forse in questo trappolone? È un prologo della vicenda. Hai capito? Secondo me sono insomma dei conticini che hanno hanno saldato tra loro. Mi meraviglia Il Mattino che lanci un titolo affibbiando una dichiarazione alla Bindi che secondo me ha sbagliato, perché noi siamo stanchi di chi viene in questa città a dirci quello che già sappiamo. Sì. Siamo stanchi di sentirci dire da Alfano che ci manda 50 super agenti. Vabbè, come se fosse questa la soluzione della camorra. Ecco, allora io ho già detto ad Alfano che 50 persone le usa Belle Rodriguez quando va a fare lo shopping per proteggersi dai fan. È venuta proprio due giorni fa, credo, a Napoli a fare. Ma tra l'altro io ce l'avrò anche al Premio San Gennaro, che è un evento attesissimo. La settimana prossima la con premio. 50, con 50 agenti. la premio. E sai che cosa sta accadendo? Sì. Qui poi passo la parola agli altri. Sì. Sta accadendo che sono attaccato da tutti i quotidiani, La Repubblica, e quelli che hanno le caste degli intellettuali, l'intelligenza, perché premiare Belen? Ho spiegato a questi signori che prima di Belen c'è Gerardo Marotta. Sai chi è Gerardo Marotta? Sì, certo. E quindi voglio dire, Il presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che è un poverello, un signore di tanti anni, poverello nel senso che lo sbattono di qua e di là, non gli danno una sede, cerca soldi per non è celebre come Belen. Sai perché faccio venire Belen a Forcella, perché poi il Duomo di Napoli a Forcella, perché io voglio che la mia gente, quella abbandonata, attraverso Belen, che è sicuramente un personaggio più attraente mediaticamente, sappia finalmente chi è Marotta, perché al mio popolo, io sono di Scampia, sono di Secondigliano, nessuno ce l'è venuto mai a raccontare. Allora guarda Gianni, mi interessa, stai qui con noi perché ti devo presentare il sindaco di Afragola, che è Domenico Tuccillo. Eccolo. Ciao, Domenico. Si conoscono tutti a Napoli, Napoli un altro bel luogo comune, si conoscono tutti. Domenico Tuccillo, il sindaco di Afragola, che però ci deve spiegare questa cosa. Oggi su Repubblica c'è una pagina di tutti quei comuni, e sono diversi, Afragola tra questi, che non vogliono, non hanno dato il permesso di girare Gomorra 2, la fiction che ci sarà su Sky. Sindaco Tuccillo, perché non vuole ad Afragola che girino Gomorra? Buongiorno a voi intanto. Buongiorno. Ho provato a spiegarlo in più di un'occasione. Se io avessi consentito la fiction, si sarebbe creata inevitabilmente una identificazione, sì, tra la città e in particolare il quartiere interessato, il quartiere delle Salicelle, che è un quartiere del post terremoto molto ghettizzato, rispetto al quale noi stiamo cercando di fare un lavoro di riscatto del quartiere. E questa identificazione Gomorra uguale Salicelle, Salicelle uguale Gomorra, avrebbe vanificato e avrebbe anche in qualche modo annientato tante energie positive che si muovono anche in quel quartiere e che stanno lavorando per il riscatto. Cioè, il rischio di identificare quel quartiere con la camorra, perché poi Gomorra racconta questo. Sì, sarebbe stato un'equivalenza automatica. Ma è un film, è una fiction, avrebbe portato indotto, portato soldi, fiction, immagino, anche al comune. È un film e una fiction, ma la nostra non è una metropoli, è una cittadina. Sì. E l'identificazione tout court della città e di quel quartiere con quel simbolo e quella immagine avrebbe prodotto un danno. Ma cioè, nel senso che secondo lei qualcuno sarebbe andato lì proprio a inneggiare anche a questi attori che interpretano No, guardi, non è di questo che mi preoccupo. Io mi preoccupo di proteggere le forze, le energie sane della città e di quel quartiere anche, che lavorano per una trasformazione del quartiere come la mia amministrazione lavora per una trasformazione di quel quartiere. Sì. Lei capirà che nell'immaginario collettivo, nel momento in cui passa un'immagine di tipo diverso, queste forze sono automaticamente annientate. No, ma infatti qui Simiole anche Scampia disse no, credo la prima. Ma guardate, io su questa storia premesso che il neorealismo bla bla bla esteticamente la fiction è un prodotto ineccepibile, devo dire, sarebbe assurdo dire il contrario. Il mio discorso sentimentale numero uno, io sono nato lì e vedere le mie strade, i miei odori, lì dove sono cresciuto, rappresentate, narrate solo in quella maniera, a me veramente mi fa proprio male un cuore, come direbbe un buon napoletano, sentimentale, giusto per restare nello stereotipo, eccetera. Punto due, qualche volta mi domando, ma alle Salicelle, al Parco Verde, a Scampia, non arriva mai nessuno, non ci fanno mai nulla, anche De Magistris, voglio dire, no? Le periferie se ne parla sempre, ma sono lì abbandonate, sono un'altra città. E poi quando c'è la fiction? Posso dire? Ci mandano la fiction. Che c'è, Tuccillo? Signor conosce le nostre realtà. Io alle Salicelle nel mese di giugno ho inaugurato uno straordinario plesso di commissariato di polizia con il viceministro Bubico. Ad ottobre avvio l'asilo nido. Ho realizzato strutture sportive che inaugurerò nel mese di ottobre. Sto lavorando per insediare una farmacia comunale in quel quartiere. E dice, di questo non si parla e si parla della fiction. No, dico, no, è un lavoro che l'amministrazione sta facendo e sta facendo nella direzione di integrare e trasformare questo quartiere con il concorso delle energie positive della scuola, della parrocchia, del quartiere. Sì, sì. Quando scatta una identificazione di tipo diverso, a prescindere dalla valutazione che si può dare sulla fiction, ovviamente per chi ha il compito come primo cittadino di proteggere l'immagine e le persone, che sono persone in carne e ossa e che non sono fiction, della propria città, questo problema si pone. Ma è chiaro, ma lei ha fatto anche una scelta, voglio dire, altri comuni anche a Giugliano hanno detto no, a Portici invece hanno detto sì. Che dire, allora vi ringrazio sindaco Domenico Tuccillo di Afragola e Gianni Simioli, ricordo la ragazza su Radio Marte, ovviamente sempre Forza Milan, caro Gianni. Allora voglio chiudere questa puntata, questa settimana, con voi ve lo ricordate che settimana scorsa abbiamo ospitato l'assessore alla provincia di Bolzano, Schuller, che aveva firmato un documento per aprire la caccia a parte delle marmotte animali protetti in Italia, ma che fanno danni, vero Carla Rocchi, presidente dell'ENPA? Fanno danni, rodono i muri, rosicchiano i ponti. Come no, fanno crollare i grattacieli, grattano i transatlantici da sotto, sì, tanto è vero. Le marmotte, no? Tanto è vero che il TAR, a cui è stato proposto questo problema, ha annullato quello che ha detto. Allora, guardi, ieri in redazione, quando c'è stata questa notizia, la nostra Elisabetta Fusconi ha detto: oh, per la prima volta in 13 anni mi sento di aver fatto una cosa utile, abbiamo fermato lo stermi. Questo per dire, voi siete i difensori delle marmotte, vi dirò di più. Ci possiamo ergere a difensori delle marmotte. Il TAR ha sospeso la... Lo hanno riconosciuto le marmotte, perché come voi sapete esiste il manuale delle giovani marmotte, come no. È stato aggiunto un capitolo, difensori delle giovani marmotte. Voi siete in testa al capitolo. Radio 24 e 24 mattino ha difeso le marmotte. No, adesso, al di là dello scherzo, c'è stata veramente la sospensiva da parte del TAR alla che cos'era poi? Una delibera, insomma, di giunta. Sì, questi signori che evidentemente hanno tempo da perdere si sono esercitati in questo. Ma adesso vi do una chicca. Sì. Siccome non è la prima volta che questi signori fanno queste cose e poi il TAR gliele sospende o gliele annulla, ogni volta che fanno un'operazione di questo tipo sprecano soldi nostri, perché il loro tempo e le loro azioni e tutto quello che fanno è spreco di soldi. Però adesso io la smetto, faccio come con Al Capone. No, Al Capone fu preso non perché era delinquente, ma perché non pagava le tasse. Certo. Allora io adesso vado alla Corte dei Conti. E che fa? E vedo cosa è costato alla comunità prendere questi provvedimenti inqualificabili, che poi vengono giustamente annullati. Cosa ci è costato a noi questa battaglia ideologica alle marmotte? E allora vediamo di presentare i conti. Non lo so. 1227 piccole marmotte volevano abbattere. Ma c'è da dire che però è sospeso al TAR, poi c'è il Consiglio di Stato, e sa che la giustizia qui in Italia fa... Io voglio sperare che il Consiglio di Stato abbia una visione illuminata e conseguente. Comunque resta il fatto del ridicolo: qualunque sia la sentenza, qualunque sia l'esito, queste persone si sono coperte di ridicolo, perché dire che si vogliono sopprimere 1000 spicci, come avete ricordato voi, marmotte, capito? Una cosa, ma io ritorno al manuale delle giovani marmotte, tutti noi da bambini l'abbiamo visto, cosa ci insegnano a vivere meglio, a vivere bene, a avere buon senso? Ecco, io penso che questi signori dovrebbero essere consegnati ai servizi marmottiferi sociali, con l'obbligo di leggere tutti i giorni il manuale, leggerlo 10-20 volte finché lo capisco. Magari accarezzando una marmotta anche. No, la marmotta, povera creatura, facciamola accarezzare da qualcuno più, come devo dire, più empatico. Se no la strozzano, dice. Se no, secondo me, sta marmotta rischia in mani così. Sì, magari stringono lì l'assessore Schuller, Schuller io lo vedo. Ma lei lo voleva denunciare, a questo punto la denuncia non c'è più, perché... Ma che denunciamo? Guarda, io volevo denunciare, ma hanno fatto prima al TAR, però io relazione legale rimane, perché questa la Corte dei Conti, io devo sapere quanto è costata questa iniziativa. Vabbè, ma una delibera di giunta, cioè quanto ci avrà messo? 10 minuti durante una giunta provinciale, non è che... Ma ci mettono di più, perché in genere quando c'è da prendere una decisione di questo peso e profilo si confrontano. Comunque lo quantificheremo, siccome questa gente la paghiamo noi, e allora vediamo quanto ci è costata questa... Alla Corte dei Conti. E porti anche una bella marmotta, una famiglia di marmotte alla Corte dei Conti per... potrebbe essere, magari vi ascoltano, però... rosicchiano i muri. Le marmotte hanno rosicchiato una sola cosa facile: la credibilità di questo consesso istituzionale. Va bene, questo va l'hanno bene. Proprio rosicchiato. Io la ringrazio, Carla Rocchi, presidente nazionale dell'ENPA, internazionale protezione animali. Le marmotte dell'Alto Adige sono salve per ordine del TAR. E quindi concludiamo la settimana così, un po' più sollevati. Ci fermiamo. Cos'era? Questi sono i cani che abbiamo scoperto che parlano in dialetto, così scrive il giornale. C'è il cane del nord e il cane del sud che non si capiscono quando abbaiano. Va bene, vi lasciamo qui perché stiamo impazzendo. 9.30 tra pochi minuti, e noi vi prendiamo lunedì prossimo. 6.30 ci siamo.